Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dipende da noi essere in un modo piuttosto che in un altro. Il nostro corpo è un giardino. La volontà, il giardiniere. Puoi piantare l'ortica o seminare la lattuga. Mettere l'issopo ed estirpare il timo. Far crescere una sola qualità di erba o svariate qualità. Lasciare sterile il terreno per pigrizia o fecondarlo col lavoro. Che il cibo abbia proprietà preventive e curative, lo abbiamo detto molte volte, che si possa dimagrire, controllare il peso e il metabolismo, anche mangiando, anzi imparando a mangiare bene, è un tema su quale abbiamo puntato a lungo, ma ora apriamo un altro capitolo. Mangiare ci fa belli. Cibi e supercibi per guadagnare in bellezza, salute, forma e longevità è il titolo del nuovo libro del dottor Ongaro, che noi conosciamo bene, che abbiamo il piacere di avere qui in studio con me. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, questo mangiare è un po', no, il suo pallino, una sua fissazione. Ma sì, nel tentativo abbiamo parlato molte volte di questo, è quello di recuperare un po' un rapporto corretto con il cibo, uscendo da questa dimensione in cui siamo da un certo punto costantemente attratti dagli alimenti e dall'altro punto di vista li temiamo e quindi poi facciamo delle diete drastiche, poi ricadiamo negli errori. Cioè l'idea invece è quella, ristabiliamo un rapporto corretto con il cibo, con l'alimentazione, facciamo del cibo un alleato. E allora sono un po' tre capitoli, no? Il primo libro era gli aspetti curativi, il secondo come usare il cibo per perdere peso, il terzo è come usare il cibo per invecchiare meglio, possibilmente invecchiare un po' meno e anche curare la propria estetica. Lei scrive mangiare ci fa belli, sì, quindi sì. Io la prendo in parola, sì, vediamo come ci trasformerà. Mago dello specchio magico, sorgi dallo spazio profondo. Che vuoi conoscere, mia regina? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta. Al mondo una fanciulla c'è, vestita sol di stracci, poverina. E qui in studio con noi c'è anche la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco. Rido perché dico, la presento dopo la strega o la presento dopo Biancaneve? La faccio sembrare la strega oppure una principessa bella? Mi fai iniziare la trasmissione con una bella risata. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti. Dottoressa Serri, noi spesso siamo molto critici davanti allo specchio, però ha un occhio attento e benevolo come il suo. Quello che per noi è un difetto in realtà potrebbe essere un punto di forza. Proviamo a vedere, no? Assolutamente vero, proprio quello che dice è assolutamente vero, perché quando certe donne davanti a me mi dicono, vede dottoressa, io la situazione, e quello che vedo io è quasi costantemente diverso dal difetto che viene lamentato. Ho imparato a dire no, non vedo niente, mi spieghi, perché mi è capitato sovente magari di reputare di dover fare una correzione, magari un pochino di acido ialuronico in un certo punto, invece la paziente davanti a me si lamentava di una macchia che io non vedevo neanche, piuttosto che delle rughe. Ricordo una delle mie prime pazienti che voleva correggere, aveva diverse rughe sul volto, una faccia un pelo cadente, ma lei era interessata a correggere le due rughe ai lati del volto, quelle parallele alle orecchie, quelle dietro, che si coprono con i capelli, quelle anche che si coprono con i capelli e che nessuno vede praticamente. Lei voleva correggere solo quelle, perché ognuno di noi si vede anche in base alla sua storia. Certo. Certe cose non ci piacciono, guardiamo le occhiaie. Le occhiaie che io reputo fascinosissime in certi casi, queste io donne me le faccio, arabe che danno intensità allo sguardo. Penso a Anna Magnani, chi sarebbe stata Anna Magnani senza le sue occhiaie? Sono odiatissime e invece io le trovo stupende. Quindi secondo me è proprio, bisogna anche imparare a fare delle proprie caratteristiche veramente dei pregi, come viene spesso detto, e soprattutto non enfatizzarle con gli altri. Tipo, dire guarda che cuscinetto che ho qua, magari non lo nota nessuno, dopo che l'hai detto tutti ti guardano e vedono il cuscinetto, oppure percepiscono quello che, non che è impercepibile. E poi lei mi ha fatto notare un aspetto importante: noi spesso guardiamo i nostri difetti e li guardiamo, ma non ce li raccontiamo perché parliamo, no? Certo. Tra noi e noi. Invece descrivere quello che per noi è un cruccio, un problema, può anche aiutarci a minimizzarlo o farlo rientrare nella normalità. Quindi per questo vi invito all'800 24 0024 a raccontarci quelli che per voi sono i difetti, quelle parti del vostro corpo, quei dettagli che non vi fanno stare a vostro agio, vi tolgono, vogliamo dire, bellezza, o vi sembra che vi tolgano bellezza. Potete come sempre seguirci su Facebook. È un po' di tempo che non vi dico di scaricare il nostro programma, per favore fatelo per piacere personale, ma come sempre potete anche seguirci su Twitter. L'hashtag di oggi è più belli con puntini di sospensione. Ma dottor Ongaro, lei invece scrive nel suo libro che tutto quello che può essere considerato come un difetto o un problema di capelli spenti, un po' diradati, la pelle che va giù, le rughe, il girovita, la cellulite, sono in realtà da intendere come spie di un malessere più diffuso. Sì, io credo che partendo dal presupposto assolutamente condivisibile che ci sono problematiche di carattere diverso e che non è l'aderire ad un ideale estetico generico, no? O una sorta di imposizione da marketing, no? del corpo e del volto a cui dobbiamo aderire, e se invece vediamo la bellezza un po' come l'espressione massima del potenziale genetico che ognuno di noi ha, è anche evidente che un certo decadimento della bellezza rappresenta anche un parallelo decadimento della funzionalità dell'organismo. Su questo non c'è dubbio, quindi discostandoci dall'idea appunto che una persona può essere un po' ossessionata con un tratto che invece rappresenta una caratteristica magari da esaltare, però ce ne sono altri invece che possono essere dei segni, no? Abbiamo spesso parlato dell'aumento della circonferenza addominale che rappresenta una problematica estetica, ma di fatto nasconde una problematica metabolica anche piuttosto seria. Quindi bisogna anche imparare a distinguere quali sono le cose. Anche, no? La pelle che cade, un po' cadente, dottoressa Serri, di cui noi abbiamo parlato, un po' il tono flaccidino. Primi segni di malnutrizione, iponutrizione, si legge sulla pelle. Chi dimagrisce troppo in fretta, dimagrisce male, si dà al vegetarianesimo, al veganesimo non razionale, non dico quindi non darsi, ma farlo in maniera scientifica è un'altra cosa, si vede la pelle più flaccida, non ce n'è, proprio la pelle diventa più cadente. Insomma, poi ricordiamo che la pelle assieme al fegato rappresenta un organo di detossificazione fondamentale per l'organismo. Io voglio chiedervi, ma voi intanto che parlate di tutti questi difetti, mi guardate perché sono la conduttrice, perché li leggete in me, perché mi stanno scrutando, mi sento quasi, adesso conduco al Carmelo Lauricella se la ride, ma qua perché dove siamo? Oggi sei spettacolare, esatto. Luminosa. Proprio perché oggi cerchiamo di vedere la bellezza che solitamente non si vede, la vogliamo portare fuori. Allora chiedo il vostro aiuto, individuate i vostri punti critici, tono della pelle, occhiaie, girovita, diradamento dei capelli, cellulite, mettete alla prova il dottor Ongaro. Vado? Dottor Ongaro. Dottoressa Serri. Ecco, perché lui ha promesso che per cancellare le rughe, diradia la cellulite, per assottigliare il girovita. Mi dà una mano, mi aiuta. Scopri, questo gliel'ho coniato per lei, per cancellare le rughe, diradiare la cellulite, per assottigliare il girovita e dare luce a tono ai capelli spenti, scopri con noi i superalimenti. Ci Fantastico. Siamo? Allora, intanto pronti, voi chiamate, noi diamo un piccolo assaggio, è proprio il caso di dirlo, andiamo alla ricerca della soluzione per il nostro problema. Ci facciamo naturalmente aiutare da un altro esperto, abbiamo chiesto Manforte, in linea con noi è abbiamo la professoressa Silvana Creglia, docente di biochimica della nutrizione al dipartimento che mi piace molto, che è il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei e a tutti voi. Allora, noi siamo al completo, voi ci siete, intervenite subito in modo che possiamo dare la linea a tanti di voi. Continuate a scriverci al 349-238-6666. Partiamo, destinazione bellezza. Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Eccole qua, rughe, dottor Ongaro. È normale, dice lei, però ci sono rughe, anzi c'è chi legge nelle rughe proprio una salute, fa un quadro della salute del generale del nostro organismo. Beh, io credo che qui, come è stato accennato prima, sia da fare una grande distinzione tra quello che è il processo naturale, diciamo, di invecchiamento dell'organismo e quindi anche della pelle, e la manifestazione di rughe, che poi spesso sono proprio, rappresentano la storia dietro alla persona, e invece certe situazioni in cui le rughe e l'invecchiamento biologico del soggetto appaiono accelerati. La classica persona a cui finisci col dare molti più anni di quello che ha, anche per l'espressione, diciamo, complessiva che dà anche riguardo alle rughe. Lì c'è un problema molto spesso alla base, che in parte è stato già accennato, che è quello un po' della tenuta dei tessuti e anche dello stress ossidativo e del danno da radicali liberi, che ovviamente in alcune persone, anche associato ad un'alimentazione che non dà abbastanza antiossidanti, è spesso presente. Esiste quindi un tipo di alimentazione che aiuta la pelle a mantenere il tono e l'elasticità? Beh, io credo che qui è stato lanciato prima un là dalla dottoressa Serri, per me è molto importante, cioè quello di stare molto attenti anche all'introito proteico. Ci sono alcuni, è chiaro che se ne discute molto di questo e nessuno propone un eccesso di proteine, in particolare va fatta molta attenzione a non eccedere con le proteine animali quando sono poi di carni grasse o di animali, per esempio, che provengono da allevamenti intensivi. Ma se pensiamo a del pesce azzurro, per esempio, che contiene delle proteine di ottima qualità, contiene degli omega 3 che hanno una funzionalità importante anche nella pelle e ovviamente contribuiscono anche alla formazione del collagene, quindi bisogna stare un pochino attenti a non fare delle esagerazioni alimentari, magari sull'onda così di cose che si sentono. Le proteine animali fanno male, dipende da come si usano, dipende da quanto se ne assumono, e troppo poco possono anche dare un invecchiamento più rapido ad alcuni degli organi del nostro corpo. Professoressa Creglia, alimenti amici della nostra pelle, o se vogliamo anche superalimenti? Assolutamente vero. Consideriamo che quando parliamo di rughe dobbiamo tenere presente anche il fenomeno del fotoinvecchiamento dovuto a una non corretta esposizione al sole. Quindi, per prima cosa, proteggiamoci dalle radiazioni solari quando ci esponiamo, adesso che arriva la bella stagione, ma proteggiamoci anche e soprattutto per via sistemica con una corretta nutrizione. Le vitamine che sono state citate fino adesso, le vitamine antiossidanti, ma anche la vitamina A, la vitamina E, rientrano in una nuova categoria di superalimenti per la pelle che prendono il nome di cosmeceutici. I cosmeceutici o nutricosmetici sono quei nutrienti specifici che agiscono a livello topico e sistemico proprio sulla nostra epidermide. E fra questi vorrei ricordare una sostanza che è il coenzima Q. Coenzima Q si chiama ubichinone, contiene la radice stessa della parola ubiquitario, il che vuol dire che lo troviamo praticamente dovunque, in quasi tutti gli alimenti, ed è fondamentale perché sostiene la formazione del collagene e dell'elastina, le due proteine di sostegno della nostra pelle. Il coenzima Q lo troviamo nel pesce azzurro, che ha già citato il dottor Ongaro, ma lo troviamo nella carne, lo troviamo nelle uova. Ecco che con un'unica azione, mangiando anche solo 100 grammi di pesce alla settimana, soprattutto se pesce azzurro, riusciamo a sostenere in tal modo tanto la salute del sistema cardiovascolare quanto la salute della nostra cute. Ma soprattutto il coenzima Q lo troviamo negli spinaci, nei broccoli, nei cereali integrali. Basta un'alimentazione sana ed equilibrata, perché questo componente cosmeceutico si trova praticamente dappertutto. È un po' come il prezzemolo, si dice, è un po' no? Come il prezzemolo, ecco, se fosse un'erba, ma è sarebbe la prima linea di difesa antiossidante cutanea. Tanto è vero che in patologie quali la vitiligine c'è proprio una correlazione diretta e strettissima con una carenza di coenzima Q. Quindi pesce azzurro, carne, uova, spinaci, broccoli, cereali integrali, una dieta equilibrata e saremo sani dentro e di conseguenza belli fuori. Dottoressa Serri. Oltretutto il coenzima Q entra nel network di quegli antiossidanti endogeni importantissimo che lavorano tutti insieme, che sono appunto il coenzima Q, la vitamina C, la vitamina E, il glutatione e l'acido alfa-lipoico. Tutti gli ingredienti che possiamo andare a trovare anche nelle nostre creme? Ma certamente, perché la pelle si cura in and out, cioè è assurdo pensare di curarla solo con le creme, mangiando male. Addirittura posso dire che la nostra pelle, la nostra bellezza inizia quando siamo nella pancia della mamma, perché anche l'alimentazione materna influisce sui geni. Anzi, dirò ancora di più. L'epigenetica oggi ci insegna che l'alimentazione, quindi quello che dice il dottor Ongaro è importantissimo, influisce proprio sulla trascrizione genetica, cioè in essere noi possiamo cambiare i nostri geni con l'alimentazione, e infatti questa è una cosa straordinaria. Dice, quanto ti ha fatto bella mamma? Vedi, sì, noi sapevamo già tutto. Ma adesso noi oggi sappiamo che grazie all'alimentazione possiamo cambiare i geni, quindi diventare più belli. Intanto vi sentite belli, quanti anni vi date? Questa è un'altra domanda, dottor Ongaro, che possiamo fare ai nostri ascoltatori. Quanti anni vi date, quanti anni vi sentite? 800 24 00 24, prima di passare al prossimo cruccio, e noi scenderemo un po', naturalmente. Andiamo a Roma perché c'è Rachele. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Eccoci qua. Dunque, io appunto proprio su quest'ultimo punto, sul fatto di sentirsi belli, questo penso che sia un elemento molto importante, nel senso io mi critico moltissimo e mi rendo conto che mi critico un giorno sì e un giorno no, per cui un giorno mi sento bella e il giorno dopo invece vado dal mio ragazzo e gli dico mamma mia guarda come sono cicciona, e lui pochi giorni fa mi ha detto senti tu devi smetterla di dire così, perché effettivamente se c'è il giorno in cui ti senti bella, il giorno dopo non è possibile che tu ti senta brutta, evidentemente ci sarà una realtà o in un giorno o nell'altro, e visto che io ti vedo bella probabilmente la realtà è il giorno in cui ti vedi bella. Lo sposi, Rachele, te lo sposi, grazie a Rachele, complimenti. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Dottor Ongaro, e qua ce la giochiamo, perché già le mie amiche su Facebook hanno scritto sulla cellulite, non ce la facciamo, ce la facciamo? Beh, insomma, sappiamo tutti che è un problema piuttosto complesso, ed è un problema anche complesso dal punto di vista di ciò che si può fare sul piano alimentare, perché trattandosi di un grasso in qualche modo isolato e fibrotizzato non entra veramente in gioco nel consumo energetico quando mettiamo una persona a dieta, quindi è indubbiamente un problema complicato, però c'è sicuramente ci sono delle strategie da adottare che possono essere sicuramente utili a contrastare il problema e anche soprattutto a prevenirlo, visto che è così frequente in particolare nelle donne anche per una base ormonale. Intanto ricordiamo sempre l'attività fisica, che è in grado di mantenere elevata la massa muscolare e quindi di evitare anche l'accumularsi di grasso sottocutaneo. Poi il lavoro sul microcircolo, in modo da tenere la circolazione attiva in questi tessuti, quindi anche la sudorazione per esempio è importante, non tanto perché sudando bruci grassi, sudando perdi liquidi, ma perché attiva il sistema circolatorio, e questo è molto importante per mettere in gioco quel grasso depositato. Bere moltissima acqua. Quanta? Ma nel suo libro lei dà una indicazione, vede che l'ho letto proprio, precisamente, ce l'ho tutto in testa. Te lo ricordi meglio di me, credo 8-12 bicchieri al giorno, una esatto, cosa del genere. Lei dice acqua, non tè o altri succhi, proprio insiste sull'acqua. Sì, beh, quindi... insomma, l'abbiamo anche molto volte detto, insomma, l'organismo è fatto in gran parte d'acqua e credo che ci sia una, diciamo, disidratazione cronica di livello lieve, ma molto presente nella popolazione, bisogna assolutamente bere di più. Naturalmente scopriremo anche, insieme alla professoressa Creglia e alla dottoressa Serri, superalimenti, le super strategie, quello che obiettivamente, soggettivamente possiamo fare per cancellare, attenuare alcuni nostri difetti, ma anche per impararli a vedere in altro modo, come punti di forza. Siamo delle opere uniche, su questo dobbiamo sfruttare un po' la nostra unicità. Ma detto questo, dottor Ongaro, noi abbiamo due libri con dedica che possiamo dare ai nostri ascoltatori, che vogliamo misurare a proposito di cellulite con un quizzettone prima di andare ai mercati. Vada, dottor Ongaro. Ma sì, siccome abbiamo parlato di vitamine, mi piacerebbe chiedere qual è il nutriente più utile per contrastare la cellulite tra questi che adesso elenco: il beta carotene, che è contenuto, insomma, in particolare nelle carote, la vitamina C contenuta in agrumi, pomodori, peperoni e broccoli, o la vitamina D prodotta invece con l'esposizione alla luce solare. Qual è quella più utile e necessaria per contrastare la cellulite? Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi il meteo. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24. Raccontateci come vi sentite, se vi sentite belle, che cosa vi fa sentire belle, o quali sono i complessi, le cose su cui cade l'occhio quando vi guardate allo specchio. Noi siamo qua. Essere e benessere. Quando è stata l'ultima volta che vi siete fatti una risata a crepapelle? E da quanto tempo non vi capita di alzarvi al mattino felici, raggianti, con il sorriso sulle labbra? E quante volte nell'ultimo periodo avete risposto a un muso duro, a una frase scortese, a un gesto arrogante, con un sorriso tanto semplice quanto disarmante? Se questi piccoli, semplici eventi non fanno più parte della vostra vita da troppo tempo, se addirittura sono divenuti delle rarità, allora è necessario correre ai ripari. Come la salute, anche la felicità non è un diritto, ma una conquista, che richiede a volte un po' di lavoro in più. Tutti possiamo provare a cambiare ed essere felici, anche perché essere di cattivo umore invecchia, ingrassa e fa venire le rughe. Chi prova a ridere col naso fa più o meno così. Orrendo. Allora, dottor Ongaro, lei veramente si allarga perché ci fa stare bene, ci fa dimagrire, ci fa diventare belli e vuole farci diventare anche felici. Ci provo almeno, poi non va bene, so se ci riesco. Ecco, se anche voi volete seguire il dottor Ongaro, 800 24 00 24, ma in effetti è vero, perché la bellezza interiore, quando noi siamo soddisfatti, appagati, quando siamo innamorati, sembriamo e ci sentiamo più belli. Anche l'amica o l'amico che ci incontra ti dice: come ti trovo bene. E dietro come ti trovo bene c'è come sei bella o sei bello. Un ascoltatore mi fa notare che se no parlo solo il femminile, ma io sono femmina, penso anche a voi comunque. E in effetti questa, che sembra quasi una banalità, ha una sua motivazione. Voglio parlare di questo insieme al professor Giovanni Matteucci. Buongiorno professore. Buongiorno. Il professore Matteucci è direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna, quindi è collega della professoressa Creglia. Professoressa. Esattamente, il mio direttore. Il suo direttore, mamma mia, il direttore. Però il professore è anche docente di estetica. Professor Matteucci, insomma, quando stiamo bene dentro, gli altri ci trovano più belli, o noi forse ci muoviamo, siamo più luminosi, diamo l'idea di essere più appagati e quindi piacciamo di più. Beh, ciò che piace è ciò che è circondato da una specie di aura di benessere, no? Tutto ciò che ci piace sia come oggetti che come persone, che come situazioni, sono quelle realtà in cui noi ci troviamo in sintonia proprio perché percepiamo in chi ci sta davanti, in ciò che ci sta davanti, come dire, un'emanazione positiva, e quindi è importante che per apparire belli ci si sente in grado di trasmettere quest'aura comunicativa, che vuol dire tante cose, vuol dire anche essere ricchi di contenuti da trasmettere. La bellezza è, per esempio, la prima cosa che deve scoccare nel momento in cui si deve creare un dialogo tra le persone, no? Quando si sente bene in una situazione diventa anche più loquace, diventa anche più comunicativo, diventa anche più spiritoso alcune volte, no? Proprio perché è una specie di euforizzazione del momento. Questo vuol dire però che la bellezza ha proprio a che fare con questa dimensione, chiamiamola pure atmosferica, no? Creare l'atmosfera giusta molte volte vuol dire far cadere una luce particolare su ciò che ci sta davanti, e quindi valorizzare quello che incontriamo nella nostra esperienza. Quindi la bellezza poi alla fine è questo, no? Tant'è vero che possono essere rappresentate in modo bello anche le cose più brutte, l'arte questo ce lo insegna da sempre, proprio perché si riesce a ricavare quella luce positiva anche da ciò che nell'oggettività potrebbe essere ritenuto invece così, meno interessante. E questo è una delle forze dell'esperienza dell'uomo in particolare, che ha saputo molto elaborare questa dimensione. Professore, quindi dobbiamo imparare e lavorare su questo, insomma, puntare su di noi. Siamo delle coppie uniche. Anche perché in effetti quando parliamo di bellezza parliamo non di norme o di canoni esteriori che vengono imposti o, come dire, sovrapposti alla persona. Al contrario, la bellezza è la valorizzazione della qualità intrinseca del singolo, e quindi ha a che fare, per esempio, con il sentirsi bene, che vuol dire, per esempio, cercare il proprio stile di vita nelle varie circostanze, la propria misura, la propria cifra, no? Quindi dare segno di sé, ma di un sé che si va costruendo nel dialogo sia con l'ambiente che con le altre persone. Per far questo bisogna, appunto, recuperare il valore del proprio corpo, il valore della propria anima, se si vuol dire così, e soprattutto quella misura che è unica per ciascuno, e non, magari prendendo a spunto quei cliché che vengono propagandati, ma non assumendoli mai come principio normativo assoluto che debba decidere estrinsecamente come uno deve essere fatto, come uno debba comportarsi. E io credo che le norme del bello, soprattutto in un'epoca come la nostra, in cui ce ne sono fin troppe e tutte abbastanza, come dire, veicolate in maniera un po' violenta, le norme del bello debbano essere soltanto l'inizio di un percorso che ciascuno deve saper compiere per conto proprio, nella relazione, nel contesto ambientale e relazionale e sociale che si trova poi a vivere, quindi certo, per raggiungere quel sentirsi bene e in sintonia che fa appunto la differenza. Professore, noi ci proveremo, intanto la ringrazio per essere stato con noi, ci teniamo in ostaggio la professoressa Creglia, però. Va bene, però restituitemela. Gliela restituisco a mezzogiorno, mezzogiorno sì, meno qualche minuto. Esatto, per il nostro stile di vita è importante anche saper mangiare bene. Assolutamente, grazie al professor Matteucci. Noi 800 24 00 24, ripetiamo il quizzettone di oggi, ha a che fare con la cellulite. Vogliamo anche un super alimento però con la cellulite, ce lo dice tra poco la professoressa Creglia. Dottor Ongaro, il quizzettone era le vitamine, il nutriente più utile tra beta carotene, vitamina C o vitamina D. Professoressa Creglia, il dottor Ongaro parla di superalimenti, di supercibi. C'è un superalimento che ci aiuta a in qualche modo cancellare, ridurre, limitare, prevenire la cellulite? Ecco, prevenire è la parola giusta, cancellare, per i miracoli ci stiamo attrezzando, ancora non ci siamo arrivati. Ma ce la faremo? Noi stiamo lavorando per questo. Innanzitutto bere molto, quindi la regola aurea è quella che il dottor Ongaro ci ha già elargito, tante vitamine antiossidanti, alimenti a basso indice glicemico. Non dimentichiamo che la cellulite è una patologia a base infiammatoria, Quindi dobbiamo spegnere l'infiammazione, è il risultato esteriore di un malessere interiore. Esiste anche forse un piccolo aiuto che può venire da qualche superalimento. E vi cito per esempio il tè verde. Bere 2 o 3 tazze al giorno di tè verde, naturalmente non zuccherato se possibile, perché rientriamo nel discorso del basso indice glicemico, può aiutarci perché combatte con i suoi principi nutraceutici la ritenzione idrica, oltre a fornirci una dose in più di questi preziosissimi antiossidanti. E non dimentichiamo anche lo stretto rapporto che esiste fra la cellulite e la salute intestinale. L'intestino è il principale organo immunitario del nostro organismo. Se noi imparassimo a consumare tutti i giorni una porzione di yogurt, un vasetto di yogurt, possibilmente bianco e non zuccherato, anche qui, faciliteremmo l'equilibrio del microbiota, cioè della nostra microflora intestinale, e in questo modo aiuteremmo anche l'organismo a prevenire la cellulite. Quindi, e non dimentichiamo un altro superalimento come l'ananas, che è ricchissimo di una sostanza che si chiama bromelina. Bastano 2 fette di ananas per esercitare un effetto diuretico e anche un effetto parzialmente lipodegradativo. Allora, la ricetta anticellulite di oggi dagli esperti di Essere Benessere è acqua, tè verde, giusto, ananas, e aggiungiamo... Dobbiamo aggiungere l'attività fisica, anche se non fa parte di una ricetta alimentare, non possiamo non dirlo. Essere e benessere. Silenzio qua in studio, chiacchierano i miei ospiti e io vado in onda. Allora, dottor Ongaro, la ricetta anticellulite l'abbiamo scritta, ma i nostri ascoltatori sono molto curiosi su alcuni semi. Vogliamo fare di cui lei parla anche nel suo semi libro. Semi e bacche. Semi e bacche. Mm. Allora, apriamo un grande capitolone, perché i semi e le bacche riscuotono l'interesse dei ricercatori e arrivano anche, no, nelle nostre case, proprio perché se ne descrivono le proprietà in articoli, interviste. Su che cosa puntiamo? Sì, io credo che sia importante sempre ricordare che quando si parla di super cibi non si vuole invitare una persona ad iniziare a mangiare dei chili di questi tipi di alimenti, a cui spesso poi tra l'altro l'intestino non è abituato, perché sono alimenti magari che provengono da altre parti del mondo e che non utilizziamo normalmente. Mi viene in mente, perché è stata fatta una domanda, il discorso delle bacche di goji, per esempio, che sono usate da millenni nella zona del Tibet e dell'Himalaya e che hanno indubbiamente delle grandi proprietà antiossidanti, hanno un ORAC, che è la valutazione della capacità antiossidante di un alimento, molto alto, sono ricche di vitamine e di minerali, possono essere usati come piccoli snack al posto di qualcos'altro che non ha queste proprietà e nel tempo sortiscono un effetto di protezione antiossidante più elevato. L'importante è far capire, non è la dose singola elevata, è l'utilizzo in continuità nel tempo che va a sostituire degli altri alimenti che hanno proprietà nutrizionali più povere, magari hanno calorie ma hanno molto meno nutrienti. Dottoressa Serri, anche per la pelle con i prodotti cosmetici ci sono questa sorta di può esserci questa sorta di integrazione, prodotti che noi usiamo con magari per brevi periodi con super proprietà. Certamente, cioè come ci sono fattori di protezione cellulare, antiossidanti da prendere per bocca, i cosiddetti anche nutraceutici che fanno benissimo alla pelle assieme ai cibi e vanno a integrare l'alimentazione, gli stessi ingredienti possono venire applicati sulla pelle. Pensiamo all'acido ascorbico, cioè la vitamina C, quanto è efficace, la vitamina E, ma tantissimi fattori di protezione cellulare. L'unico guaio è che molto spesso queste sostanze, che sono intensamente pigmentate, in crema diventano, per esempio ci sono creme che diventano quelle a resveratrolo, sono violacee se contengono delle quantità adeguate di prodotto, quelle ai carotenoidi sono troppo rosse, per cui non sono quindi è lì che la chimica cosmetologica aiuta nel rendere questi ingredienti assolutamente efficaci dei prodotti che si possono utilizzare anche sulla pelle, e hanno una funzione utilissima anche adesso che sta per arrivare la bella stagione, proprio per abituare la pelle e renderla più forte e più resistente nei confronti dei danni solari. Quindi molecole antiossidanti contenute in prodotti in quantità adeguata, non in quantità minimale da richiamo, sì, specchio per allodole in quantità adeguata, aiutano moltissimo la pelle a essere. Il problema è che io non so quale sia la quantità adeguata. La quantità adeguata è... perché questo è il problema dobbiamo per noi, perché voi siete medici e la quantità, certo, adeguata la sapete. Allora, ma o ci accompagnate a fare la spesa, no, venite sempre con noi, facciamo un'app. Nella serietà, chiaramente, anche di chi vende e di chi consiglia, nella serietà delle aziende che propongono determinati prodotti e nell'attenzione di diventare consumatori consapevoli. Sì, ma più o meno cosa vuol dire? Bisogna guardare il cosiddetto INCI, cioè la lista degli ingredienti, sì, del prodotto, che è obbligatoria in ogni cosmetico. Se voi nell'INCI name gli ingredienti sono messi in quantità decrescente, cioè da quello presente in quantità maggiore, in genere, sì, il primo è acqua, a quello presente in quantità minore che è in fondo. Sì. Quelli presenti sotto all'1% possono essere mescolati tutti tra di loro. Bene, se voi vedete che un cosmetico ha l'ingrediente che ha il claim di attivo in fondo, vuol dire che ce n'è proprio poco. Abbiamo Daniela da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi Nicoletta e a tutti gli ospiti. Niente, io volevo fare una domanda, appunto, che avete già risposto, che, sull'ananas. So, sì, che l'ananas è una, catalizza i grassi. Infatti la professoressa Crelli ha detto che possiamo prenderlo, esatto, anche per prevenire la cellulite. Esattamente. E poi un'altra cosa volevo chiedere, so che la cellulite quando è, io ce l'ho un po' leopardata, la chiamo simpaticamente leopardata, bisogna smacchiarla ogni tanto. So che cellulite molto dolorosa e cellulite meno dolorosa. Sì. La mia quando mi pizzico male, insomma, devo dire che non è che urlo di, sì, dolore. Però insomma la sente. E allora... Però ho delle amiche che se prendono anche una bottarella così hanno proprio dei dolori intensi. Allora occupiamoci anche delle amiche della Daniela, dottoressa Serri. Male non, sì, male, è un livello non mi veniva di in mente la cellulite leopardata, bisogna affidarla a Bersani, ma comunque questa era una battuta proprio scema. E io quando ci sono questi momenti dolorosi, la componente infiammatoria della cellulite è più elevata, per cui massaggi sicuramente drenanti e massaggi non aggressivi, sì, dal punto di vista camminare senza correre troppo e senza fare un esercizio fisico troppo strenuo, perché quello può essere anche di nocumento, e poi affidarsi al dottor Ongaro per i consigli sull'alimentazione antinfiammatoria. Che spottone. Intanto abbiamo tornato a trovarci, non c'è, è caduto, e noi avevamo Stefano Polato. Stefano, eccoti. Ciao, qua. Buongiorno a tutti. Ciao Stefano, pensavo che tu fossi caduto perché oggi ci devi stuzzicare con una ricetta per la nostra bellezza. Sì, effettivamente dalla teoria alla pratica, perché cibi e super cibi ne abbiamo elencati tantissimi, però se non li trattiamo in modo giusto rischiamo di denaturarli. Quindi in questo caso abbiamo un tortino di sarde asparagi rapidissimo da fare al forno con, sì, sardine fresche diliscate, e vanno amalgamate a degli asparagi verdi tritati assieme ad un cipollotto, un po' d'olio extravergine di oliva, un po' di curry, pane grattugiato integrale e via in forno a 180 gradi per 5 minuti. Questa, il nostro tortino è pronto. Questa è la ricetta per stasera, mangiatela e poi fate una foto e ditemi se siete belli. Assunta dalla provincia di Vicenza, Assunta, mi dica la vitamina. La vitamina C. Brava Assunta. Era giusto, il libro per Assunta, professoressa Careglia, dottoressa Serri, Filippo Ongaro, grazie per essere stati con noi. Il 120 parole le trovate su Facebook. Essere e benessere.